E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Allora, come si suol dire, meglio tardi che mai. Questa è Attica Blues. Allora, visto che abbiamo cominciato un po' tardino, tagliamo subito la sigla. Oggi continuiamo la saga delle tracce alternative, quelle tracce registrate lo stesso giorno ma non inserite nell'album. Com'era poi? Se erano registrate il giorno dopo non andava bene? No, a quel punto diventavano take 1, take 2, devono appunto essere registrate tutte nello stesso giorno, ossia sono quelle varie versioni di uno stesso brano in seduta di registrazione. E allora cominciamo subito. Iniziamo subito con l'eroe del jazz moderno, ossia Charlie Parker, e questo è un brano suo, ovviamente. E si chiama Cosmic Rays. Che poi queste tracce, praticamente, dove finiscono? Finiscono nelle ristampe, non sono delle vere e proprie ghost track. Per esempio, in questo disco, che appunto è, si intitola Charlie Parker, ha 8, 9, 10, 11 brani originali che poi sono stati appunto inseriti nell'LP, e il resto tutte bonus track, e arriviamo fino a 25 versioni. Hai capito? Siamo nel gennaio del 1953, al piano c'è Hank Jones, al contrabbasso Teddy Kotick e alla batteria il grandissimo Max Roach. Quindi un quartetto. Un quartetto, qui non c'è Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Thank you. Beh, insomma, ci saranno una ventina di alternate track, ma ce ne sentiamo una sola perché il tempo è poco, come appunto avendo cominciato un po' in ritardo. Oggi siamo riusciti a entrare pelo pelo dentro questa piccola, grande, magnifica radio. Ce l'abbiamo fatta e continuiamo in bellezza. Lui è Bud Powell, qui accompagnato da Sonny Rollins al sassofono tenore, Fats Navarro alla tromba, Tommy Porter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Il brano è Bouncing with Bud. E allora che dire, rimaniamo, queste erano tracce, capito, scartate, veramente è una cosa buffa da pensare. Tra l'altro poi se uno guarda, le tracce hanno più o meno la stessa durata, quello che cambiava erano spesso gli assoli solamente o l'ordine dei solisti, e poi insomma fra 3-4 tracce veniva scelta quella da inserire, la master take da inserire proprio nell'RP. E rimaniamo in tema di grandi, lui è Sonny Rollins, qui è una registrazione del 1964, è il suo tema più famoso, St. Thomas. St. Thomas, che poi era racchiuso nel suo disco del 1957, Saxophone Colossus. E qui invece nel 64 lui ha ripreso alcuni temi con Herbie Hancock, Ron Carter e Roy McCardy alla batteria. Qui è in trio, appunto, St. Thomas. Thank you. Diciamo che questa era la prima vera versione differente dall'originale, molto più asciutta, con molti meno interventi di sassofono. Sì, poi diciamo una formula strana, quella del trio, che lui riproponeva poi spesso sempre dal vivo e mai in studio, e invece qui era una bella versione proprio di St. Thomas. E dai Caraibi ci spostiamo in Brasile con Ike Beck, che era tra l'altro il talent scout della Blue Note dal 1959 al 1962. Era lui che provava i musicisti ed era il braccio destro appunto di Alfred Lion e Francis Wolff. Ogni tanto però incideva anche dei dischi per la Blue Note, come questo Bossa Nova Soul Samba con Kenny Barrell, Wendell Marshall, Wild Bobo e Gavin Massex. Quella che ci sentiamo è Shoo Shoo. E allora andiamo avanti con queste tracce alternative. Sì, andiamo avanti con ecco, appunto ci permette di ascoltare veramente i più grandi, come questo incontro fra Stan Getz e Bill Evans, accompagnati tra l'altro da Ron Carter e Elvin Jones, quindi insomma un quartetto di tutto rispetto. Qui siamo nel 6 maggio 1964 e il brano è Grandfather Waltz. Thank you. Allora, il tempo scorre veloce qua, Via dei Volsci, San Lorenzo, Roma. Per chi ci ascoltasse in streaming, anzi, per chi non ci sta ascoltando in streaming, ricordo il sito della radio dove si può ascoltare la trasmissione in streaming, che è www.ondarossa.info. E ricordiamo pure le nostre pagine di Facebook, Twitter e Instagram, basta cercare Attica Blues e usciamo noi. E da stanchezza passiamo a un altro tenor sassofonista che ha fatto la storia del jazz. Lui si chiama Sam Rivers e qui è accompagnato da Jackie Byard, Ron Carter ancora e Tony Williams. Questa è Downstairs Blues Upstairs. E allora un saluto a Paolo Ari e al Mago Pancione, ci ascoltano da Fiumicino, anzi da Ciampino. Dopo una serie di brani corti ci iniziamo a sentire qualche brano più lungo come questo e come il prossimo ci andremo a ascoltare, di Ornette Coleman. Tra l'altro non ci dicono, una copertina bellissima, ci dico un posto da poche tracce, tra cui due alternate track. Sì, diciamo 2 su 7, quindi anche un numero abbastanza consistente. Questo è appunto Love Call del 1968, album Blue Note, quindi il periodo Blue Note di Ornette Coleman, qui accompagnato dal tenore di Dewey Redman e la ritmica poi di Coltrane, ossia Jimmy Garrison e Elvin Jones. Quella che ci sentiamo è Check Out Time. La copertina, voglio dirla, è bellissima, ci sta lei in due pose diverse con un mega orecchino a spirale, insomma veramente una bella foto. È un bel disco. Allora, ringraziamo Marta che ci ha lasciato qualche minuto in più, qualche minuto per un'ultima traccia, ma rimanete in ascolto perché subito dopo comincia Le Schiene del Soul, e quindi ultima traccia per Attica Blues per questo giovedì. Chiudiamo in bellezza con Oscar Peterson, qui accompagnato da Ray Brown e Ed Tipgen. Quella che ascoltiamo è l'alternate take di Night Train, dal disco proprio Night Train. E tra l'altro il disco che è stato registrato proprio il 15 dicembre, ma del 1962, quindi ben 54 anni fa. E allora con questo splendido trio noi ci salutiamo. Diciamo che in queste feste si accingono ad arrivare, tutti i giovedì sono buoni, quindi continueremo, giovedì prossimo faremo i traditional. Esatto, giovedì prossimo appunto parleremo dei traditional, quei brani appunto di cultura popolare che però hanno anche un qualcosa di natalizio, e quindi insomma faremo una puntata speciale appunto dedicata ai traditional. Brani poi tra l'altro rifatti un po' da tutti quanti grandi, sono un po' come gli standard, diciamo. Esattamente, poi alcuni di questi sono diventati degli standard e quindi suonati da un banco di prova appunto per qualsiasi jazzista, e a questo dedicheremo la prossima puntata.